ad alta voce. Chiara Guidi legge Memorie dal sottosuolo di Fyodor Dostoevskij, traduzione di Alfredo Polledro. Ma tutti questi sono sogni dorati. O dite, chi per primo ha dichiarato, chi per primo ha proclamato che l'uomo fa delle porcherie solamente perché non conosce i suoi veri interessi? E che a illuminarlo, ad aprirgli gli occhi sui suoi veri normali interessi, l'uomo subito smetterebbe di far porcherie. Subito diventerebbe buono e nobile. Perché, essendo illuminato e comprendendo i veri suoi vantaggi, vedrebbe appunto nel bene il proprio vantaggio. Ed è noto che nessuno può agire scientemente contro il proprio vantaggio e in conseguenza, per così dire di necessità, si metterebbe a fare il bene. Oh, pargoletto, oh, puro innocente bambino, ma quando mai... Quando mai in primo luogo è accaduto in tutti questi millenni che l'uomo agisse unicamente per il solo proprio vantaggio? Che fare? Dei milioni di fatti che testimoniano come gli uomini scientemente, cioè comprendendo appieno i loro veri vantaggi, li lasciassero in secondo piano e si buttassero su un'altra strada, a rischio, all'avventura. Da nessuno e da nulla, costrettivi, ma come se non desiderassero appunto solo la strada indicata e, ostinatamente, di loro arbitrio, se ne aprissero un'altra, difficile, assurda, cercandola poco meno che nelle tenebre. Dunque, vuol dire che per loro questa ostinazione e questo arbitrio erano effettivamente più piacevoli di ogni vantaggio. Il vantaggio. Il vantaggio. Che cos'è il vantaggio? E poi vi assumete voi di definire con perfetta esattezza in che cosa precisamente consista il vantaggio umano. E se capitasse che il vantaggio umano a volte non solo potesse, ma perfino dovesse appunto consistere nell'augurarsi in qualche caso ciò che è nocivo e non ciò che è vantaggioso? E se è così, se questo caso in qualche modo può darsi, tutta la regola se ne va in polvere. In polvere. Che cosa ne pensate? Può capitare un fatto simile? Voi ridete, ridete, signori, purché rispondiate se sono stati calcolati con piena esattezza i vantaggi umani. Non ce n'è di quelli che non solo non sono entrati, ma nemmeno possono entrare in nessuna classificazione. Infatti voi, signori, per quanto mi è noto, tutta la vostra lista dei vantaggi umani l'avete desunta come media dalle statistiche e dalle formule della scienza economica. Infatti i vostri vantaggi sono la prosperità, la ricchezza, la libertà, la tranquillità e così via. Sicché un uomo che per esempio fosse andato palesemente e scientemente contro tutta questa lista sarebbe secondo voi, naturalmente anche secondo me, un oscurantista o un vero pazzo. Non è così? È così. Ma ecco, è quel che fa meraviglia. Da che cosa proviene che tutti questi statistici, saggi e amanti dell'uman genere, nell'enumerazione dei vantaggi umani, tralascino continuamente uno dei vantaggi? Non ne tengono neppure conto nell'aspetto in cui bisogna tenerne conto, e tutto il conto ne dipende. Non sarebbe un gran guaio se lo si prendesse questo vantaggio e lo si inserisse nell'elenco. Ma in questo appunto sta la rovina, che quel bizzarro vantaggio non non rientra in nessuna classificazione e non trova posto in nessun elenco. Io per esempio ho un amico. Un amico. Signori, è amico anche vostro. E poi, è di chi? E di chi non è amico? E preparandosi a fare qualcosa, questo signore subito vi esporrà verbosamente e chiaramente come appunto gli occorre agire secondo le leggi della ragione e della verità. Non basta. Con agitazione e passione vi parlerà degli autentici e normali interessi umani. Con derisione rimprovererà gli sciocchi di corta vista che non capiscono né i propri vantaggi né la vera importanza della virtù. E esattamente un quarto d'ora dopo, senza nessun movente improvviso ed estraneo, ma precisamente per qualcosa di intimo che è superiore a tutti i suoi interessi, cambierà totalmente registro. Cioè andrà palesemente contro quello di cui egli stesso parlava. Contro le leggi della ragione e contro il proprio vantaggio. Beh, in una parola, contro tutto. Avvertirò che il mio amico è un personaggio collettivo e perciò accusare lui solo riesce un po' difficile. È proprio così, signori. Non esiste davvero qualcosa che quasi per ogni uomo è più caro dei migliori suoi vantaggi o, per non violare la logica, c'è un vantaggiosissimo vantaggio, precisamente quello tralasciato del quale parlavamo ora, che è più essenziale e più vantaggioso di tutti gli altri vantaggi e per il quale l'uomo, se occorre, è pronto ad andare contro tutte le leggi, cioè contro la ragione, l'onore, la tranquillità, la prosperità, insomma, contro tutte queste belle e utili cose, pur di raggiungere questo originario, vantaggiosissimo vantaggio che gli è più caro di ogni cosa. Beh, ma sono pur sempre vantaggi, mi interromperete voi. Permettete, ci spiegheremo ancora. E poi non si tratta di un gioco di parole, ma del fatto che questo vantaggio è degno di nota precisamente perché demolisce tutte le nostre classificazioni e infrange di continuo tutti i sistemi creati dagli amici dell'uman genere per la felicità dell'uman genere. Insomma, guasta tutto. Tutto. Ma prima che io vi nomini questo vantaggio, mi voglio compromettere personalmente e perciò audacemente dichiaro che tutti questi bei sistemi, tutte queste teorie per cui si spiegano all'umanità i suoi autentici normali interessi, perché essa, aspirando necessariamente a raggiungere questi interessi, diventi subito buona e nobile, sono, per intanto, secondo il mio parere, puro logicume. Sì, sì, sì. Sì, signori, logicume. Logicume. Infatti, affermare non fosse altro che questa teoria del rinnovamento di tutto il genere umano attraverso il sistema dei suoi propri vantaggi è, secondo me, quasi la stessa cosa. Non fosse altro che affermare, per esempio, sulle tracce di Bacol, che per effetto della civiltà l'uomo si raddolcisce e per conseguenza diventa meno sanguinario e meno atto alla guerra. Secondo logica, sembra che egli concluda proprio così. Ma l'uomo è tanto incline alla sistematicità e alla deduzione astratta che è pronto a deformare premeditatamente la verità, pronto a chiudere occhi ed orecchi pur di giustificare la propria logica. Prendo questo esempio appunto perché è un esempio anche troppo chiaro. Ma datevi uno sguardo intorno. Il sangue scorre a fiumi e per di più con così pazza allegria, come se fosse champagne. Guardate tutto il nostro secolo XIX, in cui è vissuto anche Bacco. Guardate Napoleone, il grande e l'attuale. Guardate l'America del Nord, la sempiterna federazione. Guardate infine il caricaturare Schleswig-Holstein. E che cosa raddolcisce in noi la civiltà? La civiltà non elabora nell'uomo se non la multilateralità delle sensazioni. E proprio nient'altro. Ma attraverso lo svilupparsi di questa multilateralità, l'uomo c'è caso che giunga magari a trovare un godimento nel sangue. Del resto gli è già accaduto. Avete notato che i più raffinati spargitori di sangue furono quasi sempre persone civilissime, rispetto alle quali tutti i vari Attila e Stenka Razin non valevano quanto le suola delle loro scarpe, e se non saltano agli occhi con la vivacità di Attila e di Stenka Razin. È appunto perché si incontrano troppo spesso, sono troppo comuni, non fanno più colpo. Perlomeno la civiltà ha reso l'uomo, se non più sanguinario, certamente sanguinario in modo peggiore, più infame di prima. Prima vedeva nello spargimento di sangue un atto di giustizia e con tranquilla coscienza sterminava chi occorreva. Ora, invece, sebbene consideriamo lo spargimento di sangue come un'infamia, tuttavia ci occupiamo di questa infamia e ancora più di prima. Che cos'è peggio? Cosa è peggio? Giudicate voi. Dicono che Cleopatra, scusate se prendo un esempio dalla storia romana, perdonatemi, Cleopatra amasse piantare degli spilli d'oro nel petto delle sue schiave e provasse un godimento ai loro urli e spasimi. Voi direte che questo accadeva in tempi relativamente parlando barbari, che anche ora i tempi sono barbari, perché, sempre relativamente parlando, anche ora si piantano spilli, che anche ora l'uomo, sebbene abbia imparato a vedere le cose talvolta più chiaramente che nei tempi barbari, è però ancora lontano dall'essersi abituato ad agire nel modo che la ragione e le scienze gli additano. Ma tuttavia siete perfettamente sicuri che vi si abituerà senza fallo, quando saranno passate del tutto alcune vecchie cattive abitudini e quando il buon senso e la scienza avranno pienamente rieducato e normalmente indirizzato la natura umana. Siete sicuri che allora l'uomo cesserà da sé, spontaneamente, di sbagliare e, per così dire, involontariamente, non desidererà che la sua volontà si allontani dai suoi normali interessi. Non basta. Allora, dite voi, la scienza stessa insegnerà all'uomo, sebbene questo sia già un lusso, secondo me, che in realtà egli non ha né ha mai avuto, né volontà né capriccio, e che anche lui non è nulla più che una specie di tasto di pianoforte o di una puntina d'organetto, e che inoltre ci sono al mondo anche le leggi naturali. E cosicché qualunque cosa egli faccia avviene non già per il suo volere, no, ma di per sé, secondo le leggi naturali. E per conseguenza queste leggi naturali basta scoprirle, che l'uomo non risponderà più delle sue azioni e vivere gli sarà straordinariamente facile. Tutte le azioni umane, va da sé, allora saranno calcolate secondo queste leggi, matematicamente, sul tipo d'una tavola di logaritmi fino a 108.000, e iscritte nel calendario, o meglio ancora, compariranno delle pubblicazioni ben pensanti sul tipo degli odierni dizionari enciclopedici, in cui tutto sarà enumerato e segnato in modo così preciso che nel mondo non ci saranno più né azioni né avventure. Appunto, allora, siete sempre voi che lo dite, verranno dei nuovi rapporti economici, già belle pronti, e anch'essi computati con matematica esattezza, sicché in un attimo spariranno tutti i problemi possibili, precisamente perché se ne avranno tutte le possibili soluzioni. Allora si costruirà un palazzo di cristallo, allora, beh, insomma, allora giungerà in volo l'uccello Kagan, certo. Non si può garantire in nessuna maniera, questo ormai sono io a dirlo, che allora non ci sarà, per esempio, una noia tremenda. Perché che cosa ci sarà mai da fare quando tutto sarà calcolato secondo una tabella? Ma in cambio, tutto sarà straordinariamente ragionevole, certo. Certo. Certo. Dalla noia che cosa non si semina? Infatti, anche gli spilli d'oro si piantano per noia. Ma tutto questo non sarebbe niente. Il brutto, e di nuovo sono io a dirlo, è che chissà mai c'è anche caso che la gente allora si rallegri agli spilli d'oro. Perché l'uomo è sciocco. Sciocco, in modo fenomenale. Cioè, sebbene non sia affatto sciocco, è però in cambio così ingrato che a cercarne uno simile non c'è caso di trovarlo. Infatti io, per esempio, non mi meraviglierei per nulla se a un tratto di punto in bianco in mezzo all'universale saggezza futura sorgesse un qualche gentleman dall'aspetto ignobile, o per meglio dire retrogrado e beffardo, e si mettesse le mani sui fianchi e dicesse a noi tutti: «Ebbene, signori, non dobbiamo buttar giù tutta questa saggezza d'un colpo, con una pedata mandandola in polvere, col solo scopo che tutti questi logaritmi se ne vadano al diavolo e che noi si possa di nuovo vivere secondo la nostra sciocca volontà. Questo non sarebbe ancora nulla. Ma il guaio è che senza fallo troverebbe dei seguaci. Così è fatto l'uomo. È fatto così. E tutto questo per la cagione più futile, alla quale sembra che nemmeno metta conto di accennare. Precisamente perché all'uomo, sempre e dappertutto, chiunque fosse, è sempre piaciuto agire come voleva e niente affatto come gli ordinavano la sua ragione e il suo vantaggio. E la volontà si può esercitarla anche contro il proprio vantaggio e a volte anche si deve positivamente farlo. E questa è già una mia idea, però. Proprio volere, spontaneo e libero, il nostro proprio capriccio, anche se stravagantissimo, irritata a volte magari fino alla pazzia, tutto ciò è appunto quello stesso vantaggiosissimo vantaggio tralasciato, che non rientra in nessuna classificazione e a causa del quale tutti i sistemi e le teorie se ne vanno continuamente. Diavolo! E donde hanno desunto tutti questi saggi che all'uomo occorra un volere normale, virtuoso? Come mai hanno immaginato proprio che all'uomo occorra un volere che sia proprio saggio e vantaggioso? All'uomo non occorre altro che un volere indipendente. Qualunque cosa costi questa indipendenza e a qualunque cosa conduca. Beh, il volere, lo sa il diavolo. Ma il volere in sostanza, se volete, non esiste nemmeno. Interrompete voi ridendo. Thank you.